In questo libro, diciamo che l'autore cerca anche comunque facendo una panoramica di quello che era il periodo storico in cui l'autonomia ha avuto il suo agire, far capire bene l'ambiente in cui che si respiravano in quegli anni, quindi nel movimento del 77, un movimento molto eterogeneo, un movimento che per primo si è voluto autodefinire movimento del 77 senza etichettature, e volendo anche un po' distinguersi dai fratelli maggiori del 68, con una maturità che appunto i fratelli maggiori non avevano all'epoca. E l'autonomia appunto in questo periodo si è sviluppata e ha avuto il suo apice attraverso varie manifestazioni, occupazioni di case, espropri, talora anche con una grande eterogeneità, come basti pensare il movimento appunto dei collettivi femministi, gli indiani metropolitani, ma anche attraverso, anche lavorando molto sulla comunicazione, quindi il prodotto di tanti giornali come Rosso, Senza Tregua, tanti editoriali, radio, e la nascita anche di moltissimi collettivi da Roma, Bologna, ma anche nel sud Italia. Ognuno con le proprie sfaccettature e con le proprie radicalizzazioni del territorio. Appunto, l'autonomia non si può definire come quasi un'area o di per sé, ma più una moltitudine di tante soggettività e di tante sfaccettature di quel periodo, e anche portando in piazza diverse pratiche che fino ad allora non vi erano, anche perché erano gli anni dell'applicazione della legge reale, e quindi anche il movimento ha avuto una maturità di gestire la piazza in maniera differente. Ora vorrei passare la parola all'autore, così ci darà il suo contributo. Buonasera e grazie a voi di avermi invitato, ovviamente. E questo lo dico sempre, non diciamo perché si dice, perché effettivamente, almeno per quanto mi riguarda, per quanto riguarda i compagni che in genere scrivono dei testi, non ha molto senso scriverli se poi appunto si va in giro a discutere con i compagni. E in fondo questo testo, io lo dico sempre, lo ripeto sempre a ogni discussione, è nato un po' così, è nato attraverso delle discussioni fatte con tanti compagni qui in Italia, ma in Francia, anche con compagni appunto non provenienti dall'Italia. E questa è una cosa che diciamo, mi ha interessato e mi ha spinto a scrivere questo testo. Il fatto cioè che questa vicenda storica, questo frammento di tempo storico, questa vicenda rivoluzionaria italiana, infine oggi sia qualcosa che non interessi solamente noi in quanto piccolo ambiente di compagneria, come direbbe Oreste Scalzone, ma è qualcosa che attira, affascina anche al di fuori dell'Italia. E questo è un problema, una questione che mi sono posto, di cercare di capire perché dei compagni americani si interessassero alla storia dell'autonomia, o dei francesi, o dei tedeschi, degli inglesi, greci, compagni greci. Questa è una diciamo delle motivazioni che mi ha spinto a scriverlo, questo libro. Certo, magari è un testo che avevo in mente da tempo, fosse altro appunto per vicende personali, diciamo interesse personale che possa avere verso questa vicenda, ma quello che più mi interessava comprendere, e penso che dovrebbe interessarci, è perché questa vicenda dell'autonomia, appunto, invece di rimanere così un episodio della storia italiana, così, un episodio minore alla fine forse della storia italiana, sia invece qualcosa che ha continuato a vivere in maniera strana, evidentemente, perché durante gli scorsi decenni, molti di voi lo ricorderanno molto bene, non era assolutamente facile parlare di queste storie, e ancora oggi in Italia in particolare non è agevole. Ogni volta che qualcuno diciamo, prende la parola pubblicamente su queste vicende, su queste storie, si scatena sempre un'ira divina, che permette, non permette che effettivamente ci sia un'elaborazione storica di questa vicenda. Diciamo, quello che appunto mi interessava capire era come dire, cercare di comprendere quali erano quindi le possibilità che rimanevano ancora incompiute rispetto a quella storia che si è interrotta appunto alla fine degli anni 70, e perché poi tutto questo interesse si precipitava ai nostri giorni. Quasi, diciamo, se il caso esistesse, diciamo, quasi per caso, in fondo il libro comincia con un capitolo che si chiama Crisi, che effettivamente cominciato a scrivere prima, un po' prima che diciamo, l'elemento della crisi emergesse a livello globale in questa maniera così forte, così come oggi ormai insomma, siamo abituati a sentirlo, come se fosse, no, ormai mi sembra quasi come se è da tantissimo che, no, che esiste questa crisi, in realtà poi parliamo di 2 anni. E credo che questo sia uno dei motivi, e il fatto cioè che noi ci troviamo, questa è un po' l'idea che mi sono fatto io, al termine diciamo di una fase, una fase del capitalismo, una fase del potere, una fase della storia, che è cominciata agli inizi degli anni 70. Infatti questo libro comincia nel 1973, per dei motivi anche, diciamo, di semplificazione, se vogliamo, nel senso che dovevo scegliere un momento in cui far nascere questa storia. Questo non è così semplice scegliere, come dire, la data di un movimento rivoluzionario, perché appunto non essendo un partito tradizionale, un'organizzazione tradizionale, non ha una data di nascita certa, non so come può essere quella del Partito Comunista, no? Che si sa dove è nato, quando, chi erano i personaggi, insomma. E infatti ci sono molti, a proposito di Oreste Scalzone, ne discutevamo in una delle discussioni che abbiamo fatto su questo libro, cioè beh, effettivamente ogni volta che me lo chiedono, non so, ragazzi che fanno la tesi o comunque interviste, altre cose, tendo sempre, diciamo, come generalmente si usa tra noi, a far cominciare questa storia un po' diciamo, dell'autonomia, l'autonomia operaia in particolare, a partire dalla rivolta di Piazza Statuto nel 1962. E quindi poi gli anni 60, l'operaismo, il 69, il 68, il 69, l'autunno caldo, eccetera. Dice, però anche lei si riconosceva effettivamente questa data del 73 è interessante come data di inizio. E dicevo, secondo me, da come l'ho potuta vedere poi, diciamo, a ritroso, è lì che comincia quello che oggi sta andando diciamo nuovamente in crisi, nel senso che il 73 è l'anno in cui ancora una volta il capitalismo, diciamo, mondiale dichiara uno stato di crisi, diciamo, sotto molti punti di vista, cioè la crisi energetica, la crisi petrolifera a metà degli anni 70, che diventò appunto immediatamente crisi economica e quindi crisi politica. Ma c'era anche la crisi della democrazia cosiddetta. Io comincio appunto il capitolo ricordando che il 1973 è l'anno anche in cui viene fuori questo rapporto della Trilateral, che è una specie di organizzazione capitalista, diciamo, di intellettuali, giornalisti. Monti. Monti, sì. Moltissimi degli attuali protagonisti della scena mondiale provengono da quella storia, da quella storia lì, diciamo, era appunto questa specie di governo dei filosofi, diciamo, del capitalismo, che cercava di dare una strategia a quella che era la fase capitalistica in quel momento. La fase capitalistica in quel momento era come dire, proveniva da un enorme portato di lotte. In Italia certo avevamo avuto delle grandi lotte operaie, ma poi non scordiamoci che gli anni 50 e 60 erano stati gli anni delle lotte, non so, per i diritti civili negli Stati Uniti, le lotte anticoloniali giù per il mondo, la guerra in Vietnam, la Palestina che esplodiva, insomma era una situazione in cui, cioè, il capitalismo accusava una crisi, oltre che di, diciamo, di calo nei profitti, anche di calo nella capacità di governare la società, e quindi crisi della democrazia. Era anche gli anni in cui cominciava, come dire, una consapevolezza della crisi ecologica, come si sarà poi venuta a definire, e dell'anno prima il rapporto del Club di Roma, che si chiamava sui limiti della crescita, quindi che era ovviamente anche abbastanza collegato a quella, appunto, che era la crisi petrolifera dell'epoca. E quindi credo che questo elemento della crisi sia uno di quelli che oggi, come dire, riporta un po' i pensieri, le inclinazioni dei compagni a ripensare quella storia lì, e dentro quella storia lì a trovarci appunto la vicenda dell'autonomia come una possibilità, perché quello che avvenne è che, a differenza magari di altri paesi, in particolare europei, penso alla Germania o alla Francia, dove diciamo, dopo il 68 sostanzialmente il movimento scomparve, in Francia sostanzialmente scomparve, in Germania diciamo, dal 68 si passò direttamente a una fase di lotta armata, di gruppi di lotta armata, mentre in Italia invece per delle condizioni molto particolari questa cosa non accadde, e anzi al contrario accadde che all'interno di questo contrattacco capitalistico, perché poi di questo si trattava, nacque una forza rivoluzionaria che per un pugno di anni, poi parliamo di 4-5 anni, seppe se non rovesciare il rapporto di forza, quantomeno tenerlo teso comunque in una possibilità rivoluzionaria. E credo che questa eccezionalità della situazione italiana poi sia tra le motivazioni che portano non solamente molti di noi compagni italiani ancora a elaborare quella storia, ma appunto anche compagni, gente di altre, spero che ha tutte altre esperienze, a interessarsi di questa storia, essere affascinati anche da questa possibilità. E il 1973, ovviamente abbiamo parlato, diciamo, della parte, diciamo, nemica, no? Però è importante anche la parte, diciamo, la nostra, insomma, se possiamo chiamarla così. E questo, permette una parentesi qui, è un altro dei motivi per cui credo che sia importante per noi rielaborare la nostra storia, perché c'è un vizio, secondo me, da parte in particolare diciamo, dell'intellettualità radicale italiana, ma non solo, insistere molto sull'importanza delle genealogie storiche, della ricostruzione, no, del passato per capire adesso dove siamo, però tendenzialmente questo si fa sul campo del potere, appunto. La genealogia è sempre genealogia che si fa del potere, so, da Foucault in poi, diciamo, questa è stata la stragrande maggioranza, insomma, della produzione intellettuale, però è molto più raro trovare appunto un'elaborazione, una genealogia di quella che è la nostra parte. E questo io credo che sia qualcosa di molto importante, perché se è vero, no, se vogliamo anche una banalità, ma poi nemmeno tanto, io credo, il fatto che non c'è possibilità di agire nel presente se noi non capiamo come ci siamo arrivati a questo presente, e anche quando noi, come dire, ci interroghiamo come movimenti, come compagni comunque che si organizzano oggi, nella crisi odierna, ecco, se non capiamo anche noi, no, come siamo arrivati, cioè da dove proveniamo, mi sembra difficile ricostruire una possibilità. E questo, guardate, è una cosa che ho ritrovato in tante discussioni, ma anche, diciamo, proprio per strada. Un episodio di pochi giorni fa a Roma, un ragazzo, uno studente dell'università, mi ha fermato, diciamo, di un collettivo auto-organizzato all'università, che mi ha detto: beh, grazie di aver scritto questo libro. Dico: beh, grazie. E lui dice: ma sai perché? Perché io non ho fratelli, non ho padri che sono stati impegnati nei movimenti, e quindi un po' mi è servita, lui diceva così, un po' questa espressione, per giustificare quello che faccio io adesso, cioè per trovare comunque uno sfondo, una genealogia, appunto, degli antenati, no? Una specie di antenati, poi abbastanza recenti in fondo, che giustificassero quello che lui faceva adesso. E questo credo che sia qualcosa di molto importante, e che negli anni scorsi, devo dire, è un po' mancata, se non attraverso le poche esperienze magari dei compagni più fortunati, che magari appunto hanno potuto conoscere delle persone, gli hanno trasmesso qualcosa, un sapere che non è solamente storico, molte volte è quello che definirei proprio un sapere anche tecnico, no? Di come si costruisce un movimento, di come si costruisce organizzazione, di come si sta anche come insieme tra compagni. Però questa cosa non è una cosa che va da sé, non è scontata. E questo lo ritrovo sempre nelle tante discussioni che mi capitano di fare, specialmente con più giovani, che appunto hanno una curiosità verso questa vicenda, che non è quella appunto di una feticizzazione appunto di un periodo storico, ma è quella proprio di trovare, come dire, una propria appartenenza, una propria genealogia in fondo. E il 73, dicevo, comunque è importante, perché segna un cambio di passo anche nei movimenti. Questo lo si identifica generalmente, lo faccio anch'io, facendo perno sulla storia dell'occupazione della Fiat a Torino, che ebbe delle caratteristiche molto differenti da quelle che erano, diciamo, le modalità più o meno classiche di lotta operaia. Non che venisse fuori dal nulla, già a fine degli anni 60, nel 69, si sono visti, no, gli scioperi selvaggi, il gatto selvaggio, insomma, l'invenzione di nuove forme di sciopero, nuove forme di attacco che gli operai avevano messo in campo. Però il 1973, con l'occupazione, ha qualcosa in più, e che da una parte era un po' nel rendersi visibile di quello che era un po' stata, se vogliamo, un po' l'anima un po' del discorso operaista degli anni 60, diciamo, quello del rifiuto del lavoro, e cioè che questa occupazione non era un'occupazione che mirava, non so, all'autogestione della fabbrica, ad esempio, ma era un'occupazione che mirava alla paralisi della fabbrica, da un lato, e al fatto di oltrepassare il muro della fabbrica. Cioè l'indicazione più importante, forse una tra le indicazioni più importanti che venne da quell'occupazione, fu il fatto che gli operai iniziavano a uscire fuori dalla fabbrica, a occupare le strade e i dintorni di Mirafiori, e a indicare il fatto che appunto forse era finita una fase della lotta, che era appunto quella tipicamente rivendicativa che erano le lotte operaie, e iniziava una fase che invece veniva definita come di riappropriazione, e quindi da lì poi partono le occupazioni delle case, le autoriduzioni, tutto quello che poi generalmente viene ascritto, no, in questo, diciamo, sotto la storia dell'autonomia. E poi c'è un altro fattore, secondo me meno trattato generalmente, diciamo, dalla saggistica che se ne è occupato, e che secondo me invece ha un'importanza fondamentale, quantomeno per la costruzione, diciamo, di questo piano etico, no, che poi costituì l'autonomia in Italia, che questo avverarsi invece di un'altra questione che lo stesso operaismo aveva messo in luce. Io infatti introduco questo capitolo sull'occupazione della Fiat con una frase di Tronti, che secondo me non so nemmeno se Tronti si è mai reso conto poi fino in fondo di che cosa significava questo, dire quello che ha detto, e cioè quando dice la classe operaia per lottare contro il capitale deve lottare contro se stessa in quanto parte del capitale. Io credo che sia questo che abbia scatenato in Italia un qualche cosa che non si era mai visto in Italia e che altrove appunto faceva fatica a venire fuori, e cioè il rifiuto che a partire, diciamo, dalla soggettività operaia si operava verso quello che era il proprio ruolo sociale, la propria, insomma, collocazione all'interno del ciclo produttivo, non so, e insomma generalmente di quella che era, insomma, la forma della società, e quindi il rifiuto degli operai di identificarsi in questa funzione del capitale. E secondo me questo gesto fortissimo, non so, di rifiuto fu quello che poi si riverberò, perché poi a mio avviso i movimenti rivoluzionari funzionano molte volte per questo strano sistema di risonanza, no? di riverbero, e questo gesto di rifiuto si riverberò su tutti gli altri strati sociali, e quindi è da lì, poi, non solo gli operai non volevano più essere operai, ma le donne non volevano appunto più essere ascritte appunto a questa idea, no, domestica, dello sfruttamento domestico, gli studenti non volevano più essere studenti, quantomeno essere sottoposti appunto a quel tipo di disciplina, e così per tutte le altre categorie sociali. Secondo me questo, che è già una formulazione, no, più colta, si potrebbe chiamare una forma di desoggettivazione, fu un segnale fondativo di quella che poi fu quella che chiamiamo l'area dell'autonomia, cioè di una forma, diciamo, di rifiuto che magari da un atteggiamento piuttosto passivo, no? C'è sempre anche una forma di estraneità rispetto al proprio ruolo, che so, al lavoro, alla propria identità sociale, che generalmente è passiva. Ecco, in quel momento appunto scattò questo passaggio invece a divenire autonomia, e quindi appunto a essere qualcosa di attivo, di offensivo. E se c'è qualcosa che rimase, diciamo, dell'idea operaia del conflitto, anche perché appunto dopo l'occupazione della Fiat del 73 la verità è che diciamo, almeno in gran parte dell'autonomia si iniziò a pensare che forse non era più la fabbrica in senso tradizionale il centro del conflitto, non era più il soggetto operaio in senso tradizionale il soggetto del conflitto, ma appunto c'è una molteplicità dei luoghi, una molteplicità dei soggetti, insomma questo questo modo di desoggettivarsi e di, come dire, risoggettivarsi altrove, no? Come molte volte si usava a dire in molte riviste dell'epoca, no? Di ricomporsi altrove, fu quello che probabilmente mandò più nel panico quello che era la forma del governo in Italia. Nel 1973 ricordiamo che a livello globale il contrattacco anticapitalistico significò ad esempio il golpe in Cile, ma in Italia significò immediatamente dopo la strategia del compromesso storico. Questa era la forma del governo italiano, e forse diciamo che l'Italia a volte, nonostante no, l'idea strana che ci sia una specie di arretratezza italiana, in realtà anticipa delle fasi politiche, e anche questo è il compromesso storico, così come si chiama allora, comunque della cogestione, no, del governo dello Stato da parte no, di forze che prima erano divise in partiti. Ecco, è un'idea avanzata, diciamo, di una specie di governo cibernetico, no, della società, che poi si è avverata a livello mondiale nei decenni successivi. Cioè di qualcosa che richiede non solamente, come dire, l'accordo fra delle parti, diciamo, idealmente in contrasto, ma richiede la partecipazione attiva dei cittadini al governo del sociale. E io credo che forse questo è stato un altro degli elementi che ha permesso che in Italia ci fosse questa forma di anomalia, no, che rappresentò il movimento rivoluzionario italiano negli anni 70, e in particolare dell'autonomia, cioè di qualcosa appunto che non solo si rifiutasse, si sottraesse alle forme di identità sociale stabilite, ma che rilanciasse il conflitto su un livello appunto in cui non poteva essere recuperato a una appunto gestione condivisa del sociale. Gli autori di tutto possono essere definiti in tanti modi, tranne per esempio che come attivisti, no? Attivisti è una parola, una formula che è diventata molto comune negli ultimi decenni, no? E per attivisti molte volte, senza dare forzatamente, diciamo, un senso negativo al termine, però, come dire, è una forma di partecipazione anche al conflitto, che però non ha in sé questa irriducibilità al governo, alla cogestione, che invece diciamo, l'autonomia mostrò. E questo credo che sia quello che abbia aperto una conflittualità così intensa e così dura in Italia, cioè il fatto che a fronte appunto di una reazione capitalistica di quel tipo, che significava appunto l'inizio, non so, dell'automazione in fabbrica, la frammentazione del lavoro, quindi, no, le piccole industrie che diventavano più importanti, della Fiat ad esempio, la precarizzazione del lavoro, tutte queste cose che oggi conosciamo benissimo, ecco, a fronte di questo non ci fosse una forza, come dire, che rivendicava, no? Come poteva essere una forza, non so, come il sindacato, che rivendicava, non so, un miglioramento delle condizioni salariali, certo, magari anche questo, ma forse in minima parte, ma che agiva nel, come dire, sul territorio direttamente per come si diceva allora, praticare immediatamente l'obiettivo. E l'obiettivo, in una formazione che a me ha sempre colpito molto, era questa cosa, no, di dire vivere il comunismo, no? Vivere il comunismo qui e adesso, che era un'altra, no, di queste formule un po' eretiche rispetto anche a quella che è stata sempre la storia della sinistra e del comunismo italiano, no? Di immaginare la rivoluzione, il comunismo come qualcosa sempre che sarebbe venuta un giorno, forse, dopo appunto immani sacrifici del popolo. E invece questa cosa di comprendere che se una possibilità c'era di rivoluzione, no, di insurrezione, era quella di praticare da subito, no, delle possibilità di vivere il comunismo. E questo credo che sia un altro degli elementi che resta ancora oggi come un'indicazione importante, quantomeno, che fa riflettere, quantomeno. Per finire sulla questione del 73, della Fiat, della fabbrica, così, ecco, una delle cose che mi interessa sempre discutere è questa. Quello che che pare, insomma, da quella che fu quella pratica di lotta a Mirafiori, che fu infatti poi verificata, giudicata così, no, da, per esempio, dei militanti di Potere Operaio, no, che dissero: beh, siamo arrivati a un limite massimo, no, delle lotte operaie e quindi ci sciogliamo. E cos'era questo limite massimo? Questo limite massimo credo che sia il fatto che gli operai stessi a un certo punto arrivarono a un punto di dire: bene, sapete cosa c'è? Questa fabbrica è irriformabile, non è più appropriata, non è, e quindi finivano anche un po' tutti i discorsi, un po' l'autogestione, appunto la preparazione della produzione, tutte queste cose qui. Perché la pratica poi reale dell'autonomia anche delle fabbriche fu questa, quella, diciamo, del sabotaggio, fu quella del rifiuto del lavoro. Non dimentichiamoci che una delle pratiche di lotta e di vita più diffuse all'epoca era ad esempio l'assenteismo che raggiunse delle punte tra 25 e 30%, quindi cifre enormi. E questo, appunto, quando raggiunge una cifra così alta, significa appunto che un vecchio modo del lavoratore per sottrarsi alla fatica diventava una pratica diffusa di lotta, una pratica di vita, direi. Ecco. E quindi questa idea, no, che la fabbrica fosse riformabile, e cioè che quindi andasse fondamentalmente distrutta nel suo essere, appunto, un aggregato non solo di fatica, di sfruttamento, appunto, ma anche di nocività, di delirio alla fine. È una delle cose più belle che si trovano nei volantini degli operai autonomi dell'epoca, è questo degli operai dell'Assemblea Autonoma di Porto Marghera, che dicevano sostanzialmente: beh, che credete, compagni, che gli operai vengono in fabbrica per fare le inchieste? E non è così, e dicevano: se forse lo pensate. Gli operai ci vengono perché sono costretti, costretti ogni giorno ad alzarsi, appunto, per guadagnare queste quattro lire, appunto, che poi ormai non saremo più a misurare quelli che erano, appunto, non solo i bisogni, ma i desideri operai. E questo fu, diciamo, questa rottura della misura, appunto, dei bisogni, e questa idea che ormai la fabbrica, appunto, fosse qualcosa di riformabile, aprì, appunto, un enorme conflitto su un terreno differente, che è quello un po' che poi abbiamo si iniziò a scoprire allora, negli anni 70, in fondo, e che oggi magari ripreso con una maturità, un'analisi un po' più profonda, che è quello della lotta metropolitana, della lotta contro la metropoli, una delle copertine più famose, no, di Rosso, che era questa rivista, una delle più famose riviste dell'autonomia, appunto, era Operai contro la metropoli. E questo è interessante, secondo me, come punto oggi della discussione, perché se ammettiamo, diamo per vera, diciamo, questa equazione che si è fatta, la metropoli sta alla fabbrica, sostanzialmente, come forma, insomma, di produzione, come forma di sfruttamento, come ciclo della produzione integrato. Ecco, forse quello che bisognerebbe chiedersi oggi, ad esempio, è se la metropoli è riformabile, perché se non lo è, allora lì abbiamo, come dire, il problema da affrontare, perché questo a mio avviso è, appunto, qualcosa che inizia a rivelarsi negli anni 70 come questione, appunto, di vivere questa sorta di ostilità, no, della metropoli verso una vita più libera, e che oggi però morde molto di più. E anche qui io credo che le opzioni siano queste, in fondo. C'è chi pensa, per esempio, che sia possibile, no, appropriarsi e autogestire, per esempio, pezzi di metropoli. Ci sono fior fiore, no, di intellettuali radicali, possiamo chiamarli così, impegnati in progetti, in grossi progetti, di come quello che si chiama Smart Cities, che è un progetto, no, europeo allucinante, che vorrebbe trasformare appunto tutto quanto il territorio metropolitano, il che significa tutto, in qualcosa, no, di completamente dispositivizzato, e in un'idea magari radical liberal libertaria, ma dovrebbe essere una specie appunto di appropriazione della metropoli. E d'altra parte invece c'è chi comincia a pensare che invece appunto anche la metropoli, così come la fabbrica, non è riformabile, perché è in sé un meccanismo di dominio, di sfruttamento, di controllo, che non sono autogestibili sotto questo punto di vista. E credo che una delle lezioni che viene, dice lo striscione in fondo, no, dalla lotta Notav, sia proprio questo, perché la lotta Notav non è una lotta appunto di montanari semplicemente, no, di già, appunto, come spesso da una parte e dall'altra si tende a far credere, no, una specie di valligiani ignoranti, no, così. E anche quel territorio lì, come i territori delle province del sud italiano, sono in qualche modo parte della metropoli, però con una differenza rispetto a quella che noi intendiamo, cioè, tradizionalmente come metropoli, la metropoli dura, diciamo, la grande città. E cioè che in territori come può essere la Val di Susa o villaggi, no, come potrebbe esserci anche in questo stesso territorio, i dispositivi di controllo e di produzione, che ormai sono la stessa cosa, sono, come dire, hanno una distanza tra uno e l'altro un po' più agevole di quella che noi possiamo trovare nella grande città. La grande città, apparentemente, no, dove c'è un sacco di gente ammassata insieme, no, apparentemente dovrebbe essere più facile, ad esempio, la relazione umana, sociale. In realtà è molto più difficile, nonostante appunto la vicinanza delle persone tra di loro, no? Le persone che sono scacciate letteralmente una contro l'altra. E questo perché io credo che sia proprio questo, il fatto che i dispositivi di controllo e di produzione siano non solo enormemente più diffusi, ma molto più vicini. Le distanze sono molto più accorciate di quelle che possono esistere appunto in altri territori. Questa è un'indicazione di lotta interessante, nel senso che credo di una possibilità, come dire, di una lotta autonoma oggi, cioè quella di elaborare questa specie di dottrina delle distanze, cioè come si fa a rendere, insomma, più distante, diciamo, un dispositivo di dominio, e come invece si fa a diminuire la distanza che generalmente appunto è occupata da relazioni mercificate o di polizia, in fondo, che occupano le distanze tra degli esseri umani, e quindi che rende impossibile, per esempio, costruire un'idea di comunità. Questo è uno dei problemi che credo viene fuori negli anni 70 attraverso anche quella che sono state le lotte, l'elaborazione teorica e pratica dell'autonomia, e che oggi ci ritroviamo oggi, diciamo, nella sua fase di maturità, anche di perché di maturità? Anche perché di putrefazione, in un certo senso, perché sono questi meccanismi qui, appunto, di controllo sociale e, diciamo, di gestione, come ho detto prima, se possiamo chiamarle in un certo modo, cibernetica della società, che vengono, come dire, a putrefarsi, insomma, a essere in crisi. La crisi, io credo che da rivoluzionari, diciamo così, dobbiamo pensare che non è mai solamente una crisi economica, perché quello che in genere tendenzialmente, no, si tende a far passare è che per crisi si intende la crisi appunto dell'economia, e quindi ovviamente ci sono appunto, così negli anni 70, così oggi, no, i programmi di austerity, i programmi, no, dei sacrifici, i programmi, insomma, tutto quello che può rientrare appunto in una visione economica, no, della crisi. La verità è che la crisi è sempre, così come fu all'inizio degli anni 70, così come oggi, una crisi che è insieme economica, politica ed etica. E quindi noi dobbiamo sempre pensare che su questa, diciamo, trasversalità di questi tre piani che agisce un movimento rivoluzionario, altrimenti non esiste possibilità di movimento rivoluzionario, almeno io credo. E io credo che l'autonomia italiana abbia avuto la capacità, per tanti motivi, diciamo, della singolarità italiana, dei compagni stessi che la fecero, delle condizioni storiche in cui avvenne, che seppero elaborare appunto la crisi in questi termini qui, nel senso che il piano, diciamo, di consistenza dell'autonomia è sempre stato sdoppiato in realtà. Come dire, da una parte c'era, come dire, il piano del sabotaggio, diciamo, chiamiamolo così, del sabotaggio, quindi delle linee di fuga verso l'esterno, che erano linee di fuga offensive. Dall'altro però c'era un altro piano di consistenza verso l'interno, che era diretto alla costruzione di nuove forme di vita. Questo io credo che sia stata la grande il grande interesse un po' anche dell'autonomia in Italia, quello almeno di aver tentato di costruire insieme questi due piani di lotta, uno esterno e uno verso l'interno, perché il piano di lotta verso l'interno, quello della costruzione di forme di vita, di comunità, di possibilità appunto di vivere il comunismo qui e ora, insomma, chiamiamolo un po' come ci piace di più, credo che sia un elemento della lotta, insomma, un elemento, diciamo, della possibilità appunto di un'insurrezione, della possibilità di una rivoluzione, è altrettanto importante di quello della capacità offensiva. E questi due piani erano, come diceva lei molto bene prima, erano mediati da una capacità di comunicazione enorme. Tutta quanta, diciamo, la filiera di giornali, riviste, case editrici, radio, libere, insomma, tutta l'aspetto comunicativo, se vogliamo chiamarlo così, diciamo, del linguaggio che l'autonomia, l'area dell'autonomia seppe organizzare negli anni 70, secondo me è uno dei piani, forse il piano fondamentale dell'organizzazione autonoma, perché in realtà, appunto, non essendo un partito nel senso tradizionale del termine, nemmeno, diciamo, il partito, diciamo, bolscevico nel senso tradizionale del termine, non essendo un'organizzazione unica, ma essendo una pluralità di autonomie, quindi autonomia non solo dei soggetti, quindi gli operai, gli studenti, i giovani, le donne, eccetera, eccetera, ma anche di territori, perché appunto come è esistita un'autonomia romana, esiste un'autonomia cosentina. Francesco ha scritto, no, un saggio, no, che ricostruisce un po' la storia qui dell'autonomia calabrese, che è diversa da quella del nord-est, che a sua volta era diversa da quella di Torino, di Milano, una pluralità. Ecco, tutta questa pluralità in fondo da cosa era organizzata se non dalla capacità di comunicazione? E questa è la formazione, come dire, l'invenzione di un linguaggio comune e la condivisione di questo linguaggio, secondo me è stato il piano fondamentale poi di quella che è stata la capacità organizzativa dell'autonomia. E questo è un altro degli elementi senza del quale non si costituisce un movimento rivoluzionario, cioè quello di avere un linguaggio comune. Quindi senza linguaggio comune, senza capacità offensiva, senza condivisione di una forma di vita, a mio avviso resta tuttora difficile pensare a un movimento rivoluzionario, come dire, all'altezza della questione, chiamiamola così, con la Q maiuscola, che ci troviamo oggi. E questi sono un po', a mio avviso, i problemi che l'autonomia cominciò ad affrontare e che sono rimasti in qualche modo irrisoluti. Ecco perché rimangono incompiuti, no? E questo resto, no, che io chiamo alla fine del libro, che rimane comunque vivente, cioè, perché comunque è un'interrogazione che continua e continua a interpellare noi, ma noi intendo noi appunto che non è solo italiano, ma sono di tutti quelli che oggi si organizzano in qualche modo per trasformare lo stato di cose presenti. E in fondo io credo che siamo abbastanza confortati sotto questo punto di vista se guardiamo, come dire, al ciclo di insorgenze degli ultimi anni, e parlo solamente di quello che è accaduto in Italia, ma anche dei paesi arabi, ma anche di quello che accade negli Stati Uniti o in Spagna, no? Queste forme di occupazione, no, o di liberazione, sarebbe meglio dire, no? Delle strade, delle piazze, alla ricerca appunto di un piano di consistenza che possa appunto riprendere questa capacità etica alla fine dei conti, no? di condurre il conflitto. Molte volte quello che manca è la capacità offensiva, che invece negli anni 70 insomma, ebbe anche un livello, c'è chi dice forse fin troppo alto, no? di espressione, però anche senza di quello evidentemente non esiste il movimento rivoluzionario. Però credo che insomma vadano sempre insieme le cose, e quello che resta in fondo è un volantino stampato nel 77 a Bologna, durante o immediatamente dopo quella che è stata chiamata insurrezione bolognese, in cui appunto, i compagni dicevano: bene, siamo adesso capaci, no, di costruire barricate, di tenere un quartiere intero magari con queste barricate, di resistere magari alla polizia. Quello che ancora non siamo in grado di fare o di comprendere bene è cosa fare dietro queste barricate, cosa fare dentro questo quartiere, cioè come organizzare effettivamente, materialmente, la vita fuori, no, dal capitale, fuori, no, dal dominio, fuori dal controllo. E questo credo che è quello che ci ritorna continuamente anche nelle nostre pratiche piccole o grandi di movimento che ci troviamo a fare. E allo stesso momento quello di come essere come dire, offensivi, ma allo stesso tempo quello di comprendere come si elabora una, appunto, come si elabora insomma in fondo questa cosa, no, che dicevo prima, vivere il comunismo qui adesso. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, se no lascio la parola a Francesco. Domande? Vorrei fare una domanda. Tu accennavi all'inizio dell'interesse che ha suscitato a livello mondiale il momento dell'autonomia, e ci sono diversi studiosi di vari paesi che sono interessati a questa cosa. Ora io invece vorrei capire due cose, no? Uno guardando indietro e l'altro guardando avanti. Com'è che si lega l'autonomia alla tradizione vetero-comunista? Per dire, c'è contraddizione tra l'autonomia e il marxismo, con gli scritti di Marx, di Engels, e poi guardando invece avanti, come si lega? C'è un legame tra l'autonomia e i nuovi movimenti tipo No Global, Occupy, Wall Street, eccetera? Ci sono delle rotture, c'è continuità? Io mi rendo conto che è una domanda enorme. Se tu potessi fare una sintesi di quello che penso io, ovviamente. E quando dicevo un interesse non tanto degli studiosi, che poi lasciano sempre il tempo che trovano, io dicevo di compagni, appunto di quelli che magari fanno Occupy, non so, Oakland, piuttosto che altri. E questo è molto più interessante, perché fin quando sono intellettuali che si interessano, va bene, siamo contenti, però non basta. Una cosa sola, sì. Per completare le due cose, no? Sia l'uno che l'altro, sia il marxismo, che in questi giorni sono nati e si sono costituiti, adesso questi praticano l'internazionalismo. Questi si sono, il comunismo è nato internazionale, è nato e vissuto, si è fatta la prima, la seconda, la terza internazionale. Questi qui addirittura sono internazionali e basta, non sono nemmeno partito, sono movimenti internazionali. cosa che non mi pare che fosse l'autore. Questo è vero, nel senso che per delle condizioni però storiche, a differenza per esempio del 68, che invece ebbe una propagazione mondiale, l'autonomia è rimasta un'eccezione italiana. Questo è non è che i compagni stessi dell'autonomia non ci pensarono a questo. Magari proprio verso la fine, in realtà, poi della storia, diciamo, verso la fine degli anni 70, cominciarono infatti le prime riflessioni su una possibilità, per esempio, europea dell'autonomia. Ma non si ebbe il tempo, perché non si ebbe il tempo, perché poi furono arrestati tutti sostanzialmente. Vabbè, l'ho buttato un po' così, però è abbastanza così. Però è vera questa cosa qui. Cioè, se è stato un limite all'autonomia, uno dei limiti all'autonomia è stato quello di non essersi propagata. Però questo è stato dovuto anche delle condizioni storiche dell'epoca. Ma non dimentichiamo che non fossero invece limiti teorici. I limiti teorici, non so, sono teorici appunto. E la questione, io credo che fosse proprio nei processi storici era un momento, come dire, di passaggio epocale, quello degli anni 70, e che in Italia si è vissuto in maniera strana, diciamo un po' diciamo sfalsata rispetto ad altri paesi. E ciò che infatti, diciamo, quella che è stata la ristrutturazione capitalistica italiana è arrivato con qualche anno, quindi un po' in ritardo in Italia, giusto perché c'erano questi movimenti. Magari altrove invece sono stati o recuperati o comunque sconfitti immediatamente, come anche in altri paesi europei, e ciò, come dire, tutto questo processo di ristrutturazione ha avuto delle fasi molto più veloci. Negli Stati Uniti già c'era, insomma, sostanzialmente quello che poi noi abbiamo vissuto dieci anni di ritardo. E non dimentichiamoci che in Europa c'era ancora il fascismo, in Spagna, in Grecia, è una situazione abbastanza particolare. E comunque, nonostante questo, almeno a livello teorico, io credo che invece ci fosse magari più di quello che esisteva a livello pratico, perché a livello teorico c'era una circolazione, ad esempio, fra teorici dell'autonomia, una parte degli allievi della scuola di Francoforte in Germania, per esempio Kral, Foucault, Deleuze e Guattari in Francia. C'era una circolazione forse più alta che di quello che invece era a livello materiale, che era un po' scarso, insomma, come circolazione. Questo è un elemento sicuramente interessante. La questione diciamo, verso il passato e verso, diciamo, il futuro. L'autonomia, come tutti i movimenti rivoluzionari, segna una discontinuità, ma questo non è come dire, qualcosa che appartiene solamente all'autonomia. Sono tutti i movimenti rivoluzionari che, se sono tali, segnano una discontinuità con quello che c'era prima. E quindi se c'è al limite qualcosa di interessante l'autonomia è proprio questo suo come dire, sovvertire anche quello che era un po' l'ordine ideologico, no? Del marxismo, dell'leninismo, del maoismo, del bakuninismo, insomma di tutte le varie scuole e cappelle, no? In cui era di cui era composta la sinistra e anche l'estrema sinistra. Perché la questione dell'autonomia è importante, credo che fu qualcosa di una rottura, non solamente rispetto alla sinistra tradizionale, al partito comunista, al sindacato, ma anche rispetto a quelli che erano stati i gruppi di estrema sinistra che si erano formati immediatamente dopo il 1968. E questo credo che appunto si può dire che l'autonomia era un movimento rivoluzionario per questo, perché appunto ha segnato una rottura. Altrimenti, che cos'è un movimento rivoluzionario? Rispetto a, invece all'avanti, no? C'è dell'autonomia in queste Occupy, a Campade, insurrezioni a... Sì, nel senso che da una parte autonomia si intende una storia singolare, precisa, no? Che questa è italiana, così. però d'altra parte, diciamo, l'autonomia la trovi sempre, la trovi durante, non so, nella colonna Nurruti, durante la guerra civile in Spagna, la trovi nel 1936, nell'occupazione delle fabbriche in Francia, la trovi nell'Industrial World Workers, no? Questo sindacato anarco-sindacalista americano all'inizio degli anni 20. L'autonomia la trovi sempre lì dove appunto ci sono delle rotture forti, dei processi di auto-organizzazione, appunto, al di fuori di quelle che sono le forme classiche, tradizionali della politica. Ma specialmente io credo sta quando appunto questi livelli che dicevo prima, che sono un livello materiale, un livello etico, un livello offensivo, non si riuniscono in una potenza comune. È lì che poi trovi, no, i movimenti rivoluzionari. In questo caso l'autonomia, altre volte si chiama in un'altra maniera. E poi sì, magari ci sono dei frammenti di autonomia. Il problema che abbiamo oggi è che ognuno di questi movimenti presenta magari una caratteristica tra queste, ma non le ha tutte quante, che so, tutti, diciamo, questi tre livelli, non li ha ancora tutti insieme. Magari ha una capacità offensiva, ma non ha una base materiale. Magari ha una base materiale, ma non ha capacità offensiva. Magari ha queste due, ma non ha sostanza etica. E il problema dei movimenti rivoluzionari è sempre questo, quello di, no, di stringerli insieme, perché se non li stringi insieme, come dire, non riesci a costruire una comunità, a costruire, insomma, appunto, non solo la maniera di combattere, non solo la maniera di fare politica, ma la maniera di vivere diversamente. Se noi non iniziamo, come dire, da subito, no, quella che non la chiamano marxisti, no, la prefigurazione, no, di un comunismo, è difficile. Ai tempi di Lenin magari la prefigurazione la si viveva appunto nella fabbrica, non quest'idea, no, della fabbrica come mondo, se vogliamo, anche utopico, no, di una liberazione del lavoro. E invece negli anni 70 si è vissuto una cosa diversa, qualcosa che parla di una liberazione dal lavoro e quindi qualcosa che si espandeva nel territorio. Oggi non lo so, oggi ci sono tante cose diverse, ci sono le reti, no, le reti elettroniche, appunto questa cosa che dicevi, no, dell'internazionalismo, è una cosa di pensare bene, perché anch'io credo che ci sia questo elemento poco pensato, poco elaborato, no, in questa visione internazionale, e di che tipo di internazionalismo abbiamo bisogno oggi. Questa è una questione interessante. Per concludere su questo, allora, io dico solo una cosa, e siccome è un argomento di discussione, c'è questo slogan che è stato inventato in America da questi Occupy Wall Street, no? 99% contro l'1%. Però se uno ci pensa bene, in realtà c'è più dell'1% che è più ricco. Non è un po' una favoletta questa cosa di 99% sono poveri e il 2%. No, il problema è che quell'1% è organizzato e il 99% no. Questa è la differenza reale della lotta classe, come la vogliamo chiamare oggi. Il problema è che il 99% non è organizzato rispetto all'1% che lo è e quindi ha la capacità di dominare sul resto. Non è un problema di economico, appunto, economicista o comunque di misura della ricchezza, perché c'è ben più dell'1% che, diciamo, è più ricco di una serie di altri. Che gli Stati Uniti oggi, io ho parlato recentemente con dei compagni che hanno fatto un lungo giro negli Stati Uniti e mi hanno detto una cosa, ma sai che gli Stati Uniti sono un paese del terzo mondo ormai. Gli Stati Uniti, al di là di quello che continuano, come dire, a far vedere tramite i media e la televisione, sono un paese super impoverito, cioè con città intere sventrate, le vecchie città industriali, per esempio, disabitate, lasciate a se stesse, con la giungla che cresce in mezzo ai palazzi. Sono una specie di paese del terzo mondo, dove una lotta, e quando ci sarà, come dire, una lotta, e infatti dicevo, vista il grado di repressione enorme, no, che c'è negli Stati Uniti, beh, quando questo percentuale è piuttosto grossa, in particolare di neri, parliamo, come dire, prenderà la decisione, infatti lo dicevo, lì sarà un carnaggio, cioè sarà un, una cosa molto, molto più dura di quelle a cui siamo abituati a vedere. Avvenivi in alcune forme, e è sembrato che vi chiedete pure in qualche modo di sostenere la chiedere. Beh, credo che la forma di controllo sociale più diffusa sia questa crisi economica finanziaria. È la crisi economica finanziaria che determina il controllo sociale e lo domina. Ed è soprattutto la riduzione del lavoro a forma totalmente precaria. È questa condizione ontologica del lavoro precario che fa sì che ci sia un controllo sociale totale, devastante, che a mio parere non ha un cazzo a che fare con quanto ci venivano a raccontare questi della scuola di Francoforte. Naturalmente escludo quella parte minoritaria di cui mi accetto tutti i pregi. Però con tutta onestà ci troviamo in una situazione dalla quale ripartire, ma dalla quale naturalmente questa cosa rivolta ai più giovani di noi, cioè se non si vuole creare una confusione, ma si vuole dare una situazione, una fotografia, questo penso che lo sforzo, una fotografia di come stavano le cose prima. Ed erano cose identiche, erano cose rivoluzionarie, e perché stava succedendo che era innescato un processo di soggettività, il postmoderno e la distruzione della soggettività. Quello che ci hanno insegnato, che capitale e lavoro è tutta una cosa, era tutta, diciamo, qui a Potenza, erano fritto. E invece il capitale ha una sua soggettività e il lavoro ha una sua soggettività. Naturalmente questo è tutto giocato su un rapporto di forza ben preciso, e quando uno vince l'altro perde. E questa condizione, impattata nella nostra contemporaneità, significa assistere ad una totale precarizzazione del lavoro, quindi ad una sconfitta del lavoro così come l'abbiamo conosciuta prima. Questa precarizzazione come si può articolare? Come può diventare nuovamente non più frammentata così come l'abbiamo davanti, ma che abbia una sua ricomposizione? Ricorderai bene, perché è trascorso quegli anni, che l'inchiesta allora significava tentare di ricomporre quello che era il capitale sociale in una forma di composizione tecnica ad un capitalismo, ad una forma di composizione politica che era revolution. La composizione politica era immediatamente rivoluzione. Oggi questo passaggio tra composizione tecnica e composizione politica mi sembra che non sia dato, e la cosa presenta un grande casino, tanto per capire, c'è una cosa forte di ambiguità in questa questione. E aggiungerei io che gli anni 70, cioè l'inizio dell'autonomia, è l'inizio di una transizione, sono 30 anni, 3 decenni di transizione, è un processo che non si è compiuto e che non si compierà mai. Questo processo non ha una chiusura, non ha una fine, questo processo è così come lo vediamo, in un continuo defluire nel mondo che viviamo. Questo, a mio parere, esatta dimensione nella quale cercare di capire com'è importante fotografare, focalizzare questa storia dell'autonomia per quella che è e per quella che ha significato per molti di noi, cioè la liberazione dal lavoro salariato. Quella condizione di liberarci dal lavoro salariato non era altro che uno sforzo soggettivo, che aveva dei riflessi anche organizzativi, quanto cazzo volete, ma non è riducibile in una questione semplicistica di una organizzazione all'interno di questa questione. Beh, io penso che intanto dobbiamo dire che Marcello ha fatto veramente un bel lavoro, in quanto, anche come abbiamo sentito un po' degli interventi che ci sono stati, insomma, parlare dell'autonomia un po', diciamo, ha delle difficoltà, perché l'autonomia era un movimento così vasto, complesso e anche stratificato, che a mettere insieme un pensiero unico, che chiaramente non c'è stato, ma anche a descriverlo, chiaramente ha delle difficoltà notevoli. E Marcello invece ha fatto un lavoro molto bello, perché ha inserito dei racconti come se lui li avesse proprio vissuti, e invece appunto per l'età sua insomma non li ha vissuti. Cioè, immagino che il 12 marzo tu non eri a Roma, quindi appunto, però come ha descritto il 12 marzo sembra che in effetti lui ci sia stato. Quindi questo racconto delle cose più importanti di questi anni è invece poi la spiegazione teorica di alcuni comportamenti, rende questo libro molto didattico, molto importante. In una società futura comandata da noi sarà un libro che faremo leggere nelle scuole elementari, insomma, come avvio a un pensiero di un certo modo. L'autonomia, appunto, dicevo, ha questa difficoltà di essere spiegata, perché intanto rifiutava una teorizzazione di se stessa. Cioè, i teorici li sappiamo chi erano quelli che facevano solo teoria. Però diciamo, il movimento, che era un magma enorme, non voleva assolutamente né essere teorizzato né creare teoria, ma creare pratica. E la cosa più importante di questo movimento è stata proprio questo: creare la pratica e fare le cose, quindi non teorizzarle in un futuro, perché la società negli anni 70 era una società blindata. Adesso non è paragonabile ad oggi. Cioè, la società degli anni 70 era una società controllata più di quanto noi possiamo immaginare, controllata dai partiti, controllata dai sindacati, controllata dalla scuola, controllata dalla chiesa, controllata da un semplice collocatore di un paese, a parte quello, da un semplice collocatore del paese, che appunto una figura come un collocatore era una figura superiore a quella che poteva essere un sindaco, oppure per esempio la figura di chi dava i buoni della povertà, la famosa, come si chiamava, l'ENA. Cioè, per esempio, già avere un personaggio come quello era un personaggio che in un certo qual modo rappresentava il potere. Quindi c'era una società molto controllata che era stratificata su queste cose. Quindi c'è stato il 68, che è stato, diciamo, più un aspetto quasi di costume, diciamo sotto certi aspetti folcloristico, rispetto invece a quello che sono stati gli anni 70, che invece è stata la maturazione del 68, quella voglia di libertà che si era espressa nella società e che era stata poi, diciamo, si era quasi autoestinta e in parte era stata inglobata dalla società stessa, quello che aveva espresso il 68. Nel 70 questo non è stato possibile. Forse se non ci fosse stata l'autonomia ci sarebbe stata un'altra cosa, però l'autonomia non ha fatto altro che esprimere quel sentimento di libertà da tutte queste istituzioni che controllavano la società, ed è stato prima di tutto un movimento di natura sociale, che poi ha avuto anche, diciamo, che si è trasformato poi piano piano, subendo delle spinte, diciamo, verso un'organizzazione, che sia essa comunista o sia essa anarchica o sia essa completamente libertaria. Però il carattere dell'autonomia era proprio questa, la libertà da tutti i lacci, lacciuoli che c'erano, che venivano rappresentati anche, per esempio, da organizzazioni che sembravano libertarie, tipo Lotta Continua o Potere Operaio, che invece non lo erano, perché all'interno avevano una strutturazione di un certo modo, che anche, diciamo, la gestione dei cortei fatti prima da Lotta Continua avevano una certa modalità. Lotta Continua aveva il servizio d'ordine, gli scontri li doveva fare il servizio d'ordine, erano loro che controllavano il corteo, erano loro che decidevano chi andava avanti, chi andava indietro. L'autonomia no. Con l'esplodere dell'autonomia, la prima cosa sono stati proprio lo scioglimento dei servizi d'ordine. Tutti i cortei diventavano servizi d'ordine, tutti nel corteo erano servizi d'ordine, gli scontri li facevano tutti, No, all'interno dei cortei dell'autonomia c'era, si distribuivano le bottiglie Molotov come se adesso circolano le birre all'interno dei cortei, quindi per dire che il problema dell'autodifesa era anche quello, significava un momento di liberazione anche da quello che erano stati prima delle situazioni di controllo, e così anche nella società. La diffusione di centinaia e centinaia di collettivi all'interno delle città, se voi immaginate che Roma forse aveva, mi pare che tu l'hai quantificato, insomma, una trentina di collettivi autonomi, una città come Roma, Milano era quasi a quei livelli, regioni dove appunto diciamo l'autonomia era particolarmente diciamo diffusa, aveva centinaia e centinaia di collettivi e quindi migliaia di militanti che si muovevano non con una linea teorica, non c'era un partito, c'era un sentimento unico che era il rifiuto dell'organizzazione partitica, il rifiuto del lavoro, e questo era importante perché quell'idea appunto dell'operaio che era il centro e questo scontrava un po' con una teoria comunista, leninista, che voleva l'operaio al centro della società, l'operaio che guidava, che era diciamo l'ossatura della, questo veniva spostato, anche la teorizzazione di Negri dell'operaio sociale che diceva, cioè che cosa voleva dire? Che l'operaio non era più quello che stava nella fabbrica, ma l'operaio era anche chi stava fuori dalla fabbrica, anche chi non lavorava, anche chi cercava di organizzarsi anche illegalmente, anche a livelli illegali, anche quello era una figura che appunto in un certo qual modo poteva essere considerato un operaio. E questo rompeva. No, e questo rompeva quello che era l'idea del partito comunista, che appunto voleva che la centralità operaia fosse quello che guidasse la rivoluzione o cose del genere. L'autonomia rifiutava questa concezione. L'autonomia intanto metteva in discussione il presente, questo ecco perché poi il femminismo è riuscito a creare all'interno dell'autonomia anche delle forti contraddizioni, perché giustamente le donne posero il problema della rivoluzione nel presente, non in una società che poi si doveva formare, una società comunista, una società socialista, dove solo in quella società, solo in quel momento noi avremmo avuto la libertà. Giustamente le donne posero questo problema della libertà subito, al momento, quindi posero la loro questione, la questione femminile, con tutte le problematiche che c'erano allora sulla donna, la posero proprio al centro della discussione, al centro del movimento, al centro di quello che si doveva fare, anche nell'organizzazione del corteo, dove le donne volevano che appunto non ci fosse più il relegare il movimento femminista alla coda del corteo, e loro non erano capaci semmai di stare davanti. Quindi diciamo che, quindi voglio dire che la diffusione dell'autonomia all'interno della società italiana ha avuto proprio questa forte esigenza di spezzare tutti quei vincoli che si erano creati, sia diciamo con un ragionamento a destra che anche a sinistra. Il Partito Comunista è stato il più grosso avversario dell'autonomia. Il Partito Comunista e tutte le sezioni del Partito Comunista e del sindacato sono stati quelli che hanno visto nell'autonomia un movimento rivoluzionario pericoloso per loro stessi, perché loro appunto erano come sono adesso, insomma, i vari partiti comunisti, insomma, che appunto pensano alla questione istituzionale di arrivare al potere, di gestire il potere, così appunto come abbiamo visto. Poi il Partito Comunista Italiano era particolarmente reazionario, era particolarmente proprio repressivo, aveva al proprio interno, se voi vi ricordate, il loro ministro dell'interno Pecchioli, che se fossero andati al governo penso che tutti quelli che siamo qui in questa sala saremmo scappati tutti quanti dall'Italia, se Pecchioli per esempio fosse diventato un ministro dell'interno, altro che così. Quindi, per dire, l'autonomia intanto venne identificata come un nemico della sinistra, E questo fu il lavoro più grosso che ha fatto il Partito Comunista insieme allo Stato, perché lo Stato ha cominciato a lottare, il fenomeno della lotta armata e delle Brigate Rosse l'ha cominciato a lottare dopo che ha sconfitto l'autonomia, dopo che ha visto nell'autonomia il suo pericolo maggiore, superiore alle Brigate Rosse, superiore agli altri gruppi armati, che appunto loro avevano l'idea che era stata sempre quella del Partito Comunista, del partito. Le Brigate Rosse insomma erano un partito comunista illegale, clandestino, ma avevano le stesse caratteristiche, la stessa ideologia che aveva il Partito Comunista legale, insomma, avevano la stessa mentalità, la stessa struttura, avevano lo stesso modo di concepire la società, l'operaio, la persona che lavora, la donna con un certo ruolo. L'autonomia aveva spezzato tutte queste ideologie, non accettava assolutamente l'idea del rifiuto di tutte queste scale, di tutte queste verticalizzazioni, e difatti l'autonomia non è riuscita mai a crearsi una organizzazione, anche se all'interno ci sono state delle spinte, per esempio di vari teorici e di vari anche collettivi che cercavano di spingere verso un'organizzazione. Addirittura in un certo periodo si parlava dell'organizzazione di un partito, si erano costituite delle commissioni per fare un partito dell'autonomia, insomma, però tutto questo era un movimento ingovernabile, perché era un movimento orizzontale, non aveva nessuna gerarchia, basato sull'assemblea, e tutti i collettivi erano basati, tutte le decisioni erano basate assolutamente sull'assemblea. Le decisioni erano solo ed esclusivamente assembleari, anche assemblee ingestibili. Io mi sono trovato, forse anche qualcuno di voi, in assemblee enormi di 500, 600, 700, 700 persone, che per gestire la presidenza era ci volevano proprio capacità incredibili, però erano quelle i momenti nei quali appunto si decidevano linee da portare, campagne da fare, ma non che si decidevano su cose che non si ancora si dovevano fare, si decidevano su cose che già si facevano, perché proprio a livello naturale c'era questo sentimento di libertà, di ribellione verso tutto e verso tutti, e naturalmente tutti quanti ci trovavamo dalla Sicilia fino al Veneto a muoverci in un certo modo. Sapevamo chi erano i nostri nemici, sapevamo chi erano le persone che bisognava combattere, e l'idea che unificava tutti quanti era appunto quella del rifiuto, quello di rifiutare l'essere operaio, rifiutare essere donna casalinga destinata a fare i figli, rifiutare l'essere studente che doveva studiare, che doveva dimostrare di essere bravo e di andare avanti, perché l'idea che unificava tutti quanti era quella appunto di una rivoluzione che si stava facendo, non che dovevamo fare. Cioè noi eravamo convinti che stavamo facendo la rivoluzione, la stavamo facendo, non che stavamo costruendo il partito per andarla a fare. Non eravamo quelli che pensavamo, diciamo, come era appunto nei movimenti e nei partiti comunisti prima degli anni 70. Ci stiamo organizzando per la rivoluzione. La rivoluzione scatterà quando, sai, nell'ideologia che era tipica leninista, di come è stata creata la rivoluzione russa oppure altro tipo di rivoluzione. No, noi eravamo convinti che stavamo facendo, che quella era la rivoluzione. Che quella era la rivoluzione, e che quindi dovevamo rompere, se c'era l'operaio che lavorava in una fabbrica, doveva sabotare quella fabbrica, non doveva fare la rivendicazione sindacale. Lui rifiutava il lavoro, e quindi la prima cosa da fare era il sabotaggio. E difatti negli anni dal 73, dallo sciopero della Mirafiori, quando c'erano nella Mirafiori le squadre dei fazzoletti rossi che giravano all'interno della fabbrica e acchiappavano i capetti che non facevano andare gli operai a fare la pipì o andare a fumare la sigaretta, e si facevano le squadre interne che avevano anticipato quello che poi le Brigate Rosse cominciarono a fare con il sequestro Macchiarini, per appunto ingraziarsi lo Stato operaio, che già faceva delle cose che loro appunto pensavano di diventarne i capi, ma che gli operai già per loro autonomamente già facevano: bruciavano le macchine dei caporeparti, li andavano a prendere sotto casa, li facevano trovare legati davanti alle fabbriche, e questo lo facevano gli operai. lo facevano gli studenti verso i professori, lo facevano nei paesi, lo facevano nei paesi contro i collocatori, contro i preti, ed era pratica quotidiana. Quindi, ritornando al libro, penso che appunto ci sia stata proprio questa, e c'è una frase, un passaggio che mi piace, scritto da lui, che in un certo qual modo semplifica quello che ho detto adesso, e appunto lui dice: il comunismo disegnato dall'autonomia è spurio, mette insieme Marx e l'antipsichiatria, la Comune di Parigi e la controcultura americana, il dadaismo e l'insurrezionalismo, l'operaismo e il femminismo, fa scontrare Lenin con Frank Zappa, mentre passa come un rullo compressore sulle scorie di terzo internazionalismo che rimanevano incrostate nei gruppi e nell'ideologia della sinistra. Inoltre, continuamente alla ricerca di una realizzazione immediata, ed è prima di ogni altra cosa l'affermazione di una forma di vita comunista da difendere anche con le armi quando è il caso. Questo in effetti tu hai proprio, in questo passaggio, hai in effetti sintetizzato quello che era il comune di tutti quanti. Tu qui, quando farai una riedizione di questo libro, metterai il sud, perché in effetti qua manca, è messo molto poco, perché l'esperienza del sud, dell'autonomia proletaria del sud meridionale in genere, è stata importante, almeno per noi, perché ci sono state esperienze importantissime, uguali a quelle avvenute a Bologna, semmai non in quelle dimensioni, però a Napoli, Taranto, in Puglia, in Sicilia, in Calabria, a Cosenza, all'università, ci sono stati, ma anche in tutta la provincia. Tu pensi che nel 70, tra il 76 e l'80 nel meridione contavamo una settantina di collettivi, che ognuno di questi collettivi, spesso proprio in paesini di provincia, che lottavano contro, se pensate per esempio all'esperienza dei compagni ad Africo contro la mafia, quando ancora di mafia, parlare di mafia, contro la mafia ad Africo, contro quel prete che era il capo mafioso, come si chiamava? Don Stilo. Con l'esperienza di quello che è successo ad Africa, era un'esperienza quella lì, nazionale, che appunto era purtroppo ristretta, come succede sempre, nell'ambito dei collettivi meridionali. Però poi quando venne scoperta da Corrado Staiano, che ne fece quel libro bellissimo che si chiamava Africo, e che mi pare che ancora sia in circolazione quel libro, si è focalizzata, e quello era proprio un esempio limpido di come anche nel sud si combatteva con l'autonomia, si combatteva con un gruppo che andava contro e si rifiutava appunto di accettare e ti dico l'esempio, ma l'esempio di Verbicaro, dove c'era una radio, l'esempio di Paola, dove c'era un'altra radio, la circolazione, tu hai parlato bene della comunicazione, anche questo era un fatto importante da paragonare adesso noi abbiamo internet, abbiamo appunto i telefonini, riusciamo a comunicare, ma allora noi come facevamo? Non avevamo niente, eppure sapevamo quello che succedeva, sapevamo quello che dovevamo fare, perché che cosa c'era? Tra di noi c'era una mobilità enorme, cioè i compagni, noi a Diamante avevamo un collettivo che c'erano quasi 50-60 compagni, a Verbicara avevamo quasi un collettivo con 70-80 compagni, e tu pensi che il 12 marzo a Roma da Diamante partimmo quasi una sessantina di persone, da Verbicaro partirono 3 pullman. Per dire, dalla Calabria partirono un sacco di pullman per andare a Roma. E questo fa capire appunto il tipo di diffusione che c'era, specialmente nella provincia, dove appunto quella società repressiva si sentiva ancora di più che in una città. E quindi questo aveva creato un moto di ribellione molto, molto forte, con l'aggravante che nel sud, oltre alle forze dello Stato, avevamo una mafia ben organizzata, una mafia che controllava un partito che era la Democrazia Cristiana e che appunto, come è successo in parecchie situazioni, ammazzava senza pensarci due volte. Quindi io penso che tu hai fatto veramente un buon lavoro e che appunto questo libro è proprio secondo me è proprio da spingere a far leggere specialmente ai giovani, per far capire appunto come certi processi si possono mettere in moto, si possono fare, purché si abbia il coraggio appunto di mettersi in discussione e di mettere la faccia nelle cose che appunto facciamo. Io concludo dicendo che io non trovo adesso in questi movimenti, ecco, rispondo alla domanda che hai fatto tu pure, non trovo un'assonanza fra quello che era l'autonomia e questi movimenti di oggi, tipo quello Occupy Wall Street, no, perché questi movimenti hanno un molto di istituzionale all'interno, anche se appunto sono in una fase di scontro, però è sempre all'interno di un discorso istituzionale. L'autonomia non accettava nel modo più assoluto qualsiasi forma di contratto oppure qualsiasi forma di deriva istituzionale. Non vede, questo verso la fine, quando nacque Democrazia Proletaria, oppure nacquero diciamo derive di questo genere, però già ci troviamo in una fase nella quale diciamo quasi tutta l'autonomia era stata arrestata. E se voi pensate, l'operazione 7 aprile portò in galera quasi 500 persone, quindi forse è stata la più grossa operazione mai fatta contro un movimento in Italia. Quindi l'autonomia si spense anche perché, non avendo modelli organizzativi capaci di potersi difendere, appunto è stata facilmente smantellata con la repressione, che appunto, ricordo, portò migliaia e migliaia di persone in carcere. Non era solo la questione della lotta armata o chi dalla autonomia poi finì nella lotta armata. Il movimento in generale subì un attacco molto forte, che appunto al quale non riuscì a rispondere, proprio perché al suo interno non aveva studiato elementi organizzativi difensivi da questo punto di vista. Se ci sono domande, interventi? Io chiedo a Marcello se mi riesce a spiegare questa credine verso le biografie intellettuali di persone che sono state l'autonomia in Italia, hanno determinato l'autonomia in Italia, e grazie a loro ancora si riesce a parlare all'estero, no? Perché ci serve di autonomia in Italia. Cioè, come si fa, come i compagni, questa è una specificità così, riescono a eliminare quella che è la coscienza e la conoscenza di un movimento, dal movimento. Questa è una paraculata cosentina a tutti gli effetti. Tu, Marcello, mi dovresti spiegare, dopo aver scritto questo libro, ritengo che sei parte integrante, dopo aver appena detto che un'intera generazione, tra cui figurano i maggiori rappresentanti della coscienza e della conoscenza, il 7 aprile, lo dico ai giovani, non a te che lo sai bene, sanno perfettamente chi erano i nomi e i cognomi dei personaggi che furono messi in galera il 7 aprile. Quella generazione, quella parte, quei compagni erano conoscenza, scienza e teoria che non era disgiunta dalla pratica, come hanno dimostrato nelle loro biografie. Queste paraculate cosentine di continuare a distinguere il movimento dell'autonomia come qualcosa che riuscisse a sopravvivere al di là di quella, la sua, di quella che era la sua autoriflessione, perché i compagni erano l'autonomia in Italia, non erano qualcosa fuori dell'autonomia che vendevano libri per farsi i soldi. Questa è una cazzata che non sta né in cielo e né in terra. Quei compagni erano l'autonomia, e non credo che quei compagni si siano arricchiti. Quei compagni si sono fatti la galera, altro che si sono arricchiti. Questo è il discorso di fondo. Allora io vorrei capire una volta per tutte perché a Cosenza esiste questa maledetta credine verso quella che è la parte più nobile di questa storia, cioè questa capacità di riflettere su una cosa concreta. Se non avessimo avuto la capacità di riflessione su una cosa concreta, qua dentro di che cazzo staremmo a parlare? Di cosa staremmo a parlare se non ci fosse stata una capacità di scrivere un libro, di riflettere sulle cose? Ma di che cazzo di... Quante persone dentro hanno più di 30 anni, o meno di 30 anni? Con quali mezzi e strumenti potremmo comunicare loro le problematiche che ci sono state all'interno di quel movimento? Lo stesso Marcello Dalì, che senso avrebbe avuto scrivere un libro di questo tipo? Ma di che cazzo stiamo parlando qui dentro? Ma perché continuare a vivisezionare le cose? Ma da che punto è il mondo nella pratica del comunismo? Il comunismo è un movimento reale. Teoria e pratica sono stati sempre insieme. Lo scarto tra l'autonomia e il comunismo, così come l'avevano vissute generazioni come Franco, è che questi nuovi teorici, che non sono signorini da quattro soldi, è gente che ci ha dato l'opportunità di riflettere veramente su che cazzo era il comunismo diverso da quella generazione così come lo pensava tu. E non è una cosa da liquidare con quattro battutine. Quella gente che aveva i coglioni tra le gambe e riusciva a capire esattamente qual era la dimensione del discorso. Quindi vi prego, se no veramente è una cosa inopportuna, non sputate su cose che o non conoscete o non avete la capacità di fare vostre, perché questa è una cosa di schizofrenia acuta. Non si capisce sto cazzo di comportamenti in questa città. Ma di che cazzo state parlando? Ma ditemelo, così ci capiamo una volta per tutte. Ma come cazzo si fa a distinguere un compagno da... Non ho capito, cioè, forse ti riferisci a dei fatti... No, mi riferisco al fatto, ad esempio, scusatemi la verba, ma il problema è che io non capisco in una discussione come questa come si fa a differenziare compagni che riflettono sulle cose dai compagni che fanno le cose, mentre uno è il doppio. Perché non c'era. I compagni del 7 aprile non c'erano. Facevano altro, cercavano di teorizzare una pratica che facevano altri. Loro facevano meno, perché non i meno, come i ragazzi, cercavano di teorizzare, forse facevano altro. E loro teorizzavano e gli altri facevano. E questo è che, siccome quando faceva... Io sto parlando di Cosenza, che ho vissuto l'autonomia di Cosenza dall'inizio alla fine, e quindi questi tuoi teorici io non li ho visti a nessuna parte. Ti potrei fare i nomi di chi c'era e di chi non c'era. Quindi, vabbè, io voglio fare pure una domanda, che sembra un po' la cosa, al di là insomma di questa... La cosa che diciamo che mi ha sempre un po' affascinato anche dal punto di vista non solo storico ma pure letterario, insomma, no? È che poi scarsamente ho ritrovato anche nelle produzioni di quegli anni, le produzioni che molti compagni hanno fatto. Per esempio quello che è stato il rapporto tra l'autonomia e gli altri movimenti, e in particolare per esempio quella che fu l'esperienza anche dell'area omogenea, poi durante la repressione e quant'altro. Ecco, per esempio, mi piacerebbe capire, chi ha vissuto questa esperienza, in particolare quale fu il rapporto tra l'autonomia e le cosiddette avanguardie armate di quegli anni, anche perché da quello che diciamo mi è capitato di leggere queste cose qua, diciamo non correva con sangue. Era giusto una curiosità. Io non ho capito tanto, perché ha detto, non mi sembrava che fosse venuta fuori in maniera così veemente questa polemica, però credo che sia qualcosa che appartenga più al dopo, cioè che agli anni 70. In realtà è quello che è avvenuto dopo che ha determinato tutta una serie, no, di rotture anche umane, personali, storiche, così. Però c'è la questione, cioè, che secondo me è vera questa cosa qui, che non possiamo astrarre da quella che è stata la produzione di Toni, ma come di tanti altri che potremmo citare. Toni, per dire, la persona più autorevole e più riconosciuta. Aspetta. Io ti chiedo una cosa: tu riuscivi a scrivere questo libro senza la presenza e l'esistenza di Quaderni Rossi in Italia? Cioè, tu stai confondendo un po' le questioni, però il problema è che l'autonomia è appunto un movimento complesso. E quello che ho voluto fare è, diciamo, evidentemente non togliere niente a quello che è stato il percorso di alcuni operaisti, ma nemmeno togliere niente a quello che è stato altri percorsi. Il problema è, sai cos'è? È che è vero, non quello che dici tu, la persona più autorevole, no? In questo caso Toni Negri, però il fatto dell'autorevolezza, diciamo, che poi ha conquistato dopo a livello mondiale, diciamo, nei decenni successivi, ha determinato un interesse indubbio verso una parte della storia e della teoria, diciamo, in alcuni ambienti. Però io all'inizio stavo parlando di un interesse appunto al di fuori degli ambienti, diciamo, come li vuoi chiamare, accademici, intellettuali, o qualcosa, insomma, di simile, che è ciò che mi interessava di più. E rispetto agli anni 70, il problema, ma questo se Toni sarebbe il primo a dirlo, sì, che lui certo faceva, ma se non avesse avuto Sbrogiò, no, Italo Sbrogiò, diciamo, quello di Assemblea, l'operaio che gli ha insegnato tutto a Porto Marghera, no, della realtà operaia, se non avesse avuto Paolo Pozzi a Milano e tutto il resto dei compagni che formavano questa strana organizzazione, che non era un'organizzazione, e poco sarebbe stato fatto. Il problema, credo che poi nelle esperienze personali cambia molto. Io per esempio sono originario di Bari e ho iniziato a frequentare, diciamo, il movimento durante il rapimento di Moro, quindi una fase discendente del movimento. Però forse, non so, al sud poi viviamo sempre delle fasi anche diverse rispetto a, diciamo, a Milano, ad altre città. E diciamo, se io dovessi ricordare quello che era l'ambiente dell'autonomia, io ho conosciuto solo anni dopo quello che era l'unico teorico che c'era a Bari, che cito anche all'inizio, che era De Feo, e che però non era uno così, poi che lo incontravi così spesso. I compagni, diciamo, dell'autonomia che c'erano allora erano una buona parte ovviamente di studenti, in particolare degli istituti tecnici, però la stragrande maggioranza erano questi sottoproletari, nemmeno operai, quindi, diciamo, proprio parlavo di sottoproletariato, proveniente da quelle che sarebbero, non so, le periferie, le banlieue di Bari. E che la cosa che colpì me, ma come dire, come tanti altri compagni, era questa possibilità nuova in cui questo spazio, chiamiamolo così, chiamato autonomia, potesse far incontrare della gente che non si sarebbe mai incontrata. In questo io, che andavo al liceo classico, lessi, non ne capii granché, devo dire la verità, però fra le prime letture che feci lessi Dominio e Sabotaggio, che è uscito giusto l'anno prima. Non credo sinceramente che gli altri miei compagni di collettivo lo leggessero o ne sapessero molto, ma questo secondo me poi non era così importante come dire, nella determinazione poi di quello che è stata come dire, la vicenda storica dell'autonomia, ma così come dell'autonomia, così come di quella di qualsiasi altro movimento rivoluzionario. E a proposito dell'internazionale, leggevo proprio recentemente un libro uscito l'anno scorso in Francia sulla storia della prima internazionale, che è molto interessante. Ad esempio, no, racconta la prima internazionale, che era ambiente, se vogliamo, simile in qualche modo a quello di cui stiamo parlando, in cui c'erano gli anarchici, i vecchi sansimoniani, Marx. Però a un certo punto dice, poi Marx alla fine non era così conosciuto nell'internazionale, ma questo non toglieva ovviamente a Marx poi di essere stato Marx. Marx in fondo poi è diventato, come dire, un personaggio concettuale, cioè un nome che, come dire, fa pensare appunto a una maniera di pensare il mondo che si unisce a una maniera di praticare la rivoluzione. Voglio dire che l'importante, siccome effettivamente non sono le biografie personali, e credo che i primi a dirlo sarebbero gli stessi teorici di cui stiamo parlando, che la biografia personale in un movimento rivoluzionario, in un movimento comunista, è quanto di meno è interessante. Questo io lo penso in generale, ma è quanto di meno è interessante. Dopodiché, però, per ritornare all'inizio, così affrontiamo altre due questioni. Tu hai fatto una buona esposizione di quella che è una possibile lettura dell'autonomia. È una lettura operaista, fondamentalmente. Quaderni Rossi. Perché loro hanno inventato questa cosa? No. Mi dici qual è la storia che ha inventato una cosa? Aspetta. Guarda, citami una scuola che ha inventato una cosa. No, è perché, voglio dire, è che l'operaismo stesso, ho cercato di mostrare brevemente in quel libro lì, non è una cosa così monolitica. Tronti ti direbbe che non è vero, l'autonomia non fa parte dell'operaismo. E se noi andiamo a vedere anche la biografia dell'operaismo, c'è... Aspetta. Come fai a dire che tu dice che l'autonomia... Ma non è assolutamente... L'ha detto, l'ha scritto! L'ha scritto! Ma chi ha scritto? Mario Tronti ha scritto un'introduzione molto bella che fra l'altro io sposo, a un libro enorme sulla storia dell'operaismo, in cui dice l'operaismo finisce nel 1969. Fine. L'autonomia, lui dice, è per Tronti, Tronti dice è fumo negli occhi, non c'entra un cazzo. L'autonomia è l'autonomia del politico. Ma è un'altra storia. Infatti loro fecero poi un convegno a Padova, sfidando proprio, no, nel cuore della bestia, Tronti, Cacciari, tutti quelli che provenivano da una certa parte dell'operaismo, fecero un convegno sull'operaismo, cioè, alla fine degli anni 70, in cui appunto loro cercavano di tracciare un'altra dimensione della storia. Quello che voglio dire è che se noi andiamo a leggere Rosso o altri giornali dell'area così, guardate che non è così. Sai quante persone scrivevano Rosso? Aspetta, ma non è importante, non è importante, non è importante, non è importante, non è importante, non è importante. Importante è quello che c'è scritto, e quello che c'è scritto molte volte non coincide con la cattedra operaista. Questo al di là di quello di, appunto, della mano. Hai capito, che ha vergato una pagina o l'altra. Questo è il punto su cui giustamente Tronti diceva: ma che cazzo c'entra questo con l'operaismo? Che cosa c'entra la pagina degli omosessuali con l'operaismo? Giustamente Tronti diceva: non c'entra un cazzo. E per... 30 anni dopo, perdono, aspetta, non faccio 30 anni dopo, Negri e compagnia scrivono servizi con quale dicono: guardate che c'entra molto. Ma questa è una teoria. È una teoria. Quello che io ho cercato di dire nel libro, e certo è una tesi anche questa, è che il problema appunto non era la questione appunto, ho detto bene, liberazione dal lavoro, e non era quindi più la questione, no, del lavoro. Certo, si è inventato per esempio la dizione operaio sociale, e questo l'ha detto per esempio Negri stesso. Quando ha detto, quando è tornato in Italia, in un'intervista, ha detto: noi all'epoca abbiamo dovuto utilizzare un linguaggio vecchio per esprimere delle cose nuove. Quindi quando si dice opera sociale, non si sta più parlando di quella cosa appunto che era terminata probabilmente alle mura di Mirafiori nel 1973. Il problema che a me interessava più mettere in luce, che oggi probabilmente ha più senso forse che allora, era che l'autonomia metteva in discussione il motore immobile del marxismo, che era questa storia, no, appunto, di far coincidere tutto con una questione che girasse attorno all'economia, perché al di là della questione dell'operaio, la fa, tutto quanto poi gira intorno all'economia. E il problema era che praticamente l'autonomia mise in discussione questo, non teoricamente, praticamente, facendo risaltare il fatto che appunto ci si ricomponeva altrove rispetto a quello che è il paradigma appunto dell'economia e del governo degli uomini e delle cose. Perché il problema del marxismo fondamentalmente è che non si è mai sganciato, se vogliamo parlare appunto in termini teorici, da una certa metafisica tipicamente occidentale, ovviamente, che è quella appunto che gira attorno al soggetto e all'economia. Io credo che l'autonomia in Italia, altri movimenti altrove, più piccoli, più grandi, diciamo, con le loro differenze, eccetera, hanno messo appunto le mani su questo aspetto qui, cioè su questa, come dire, questa fine appunto del soggetto. Il postmoderno è il momento appunto del il lavoro frammentato, ma non è che scompare, tutto quanto riconduce attorno, riconduce sempre a questo livello appunto dell'economicizzazione, no, della soggettività. Il problema appunto che almeno nella mia lettura, ma non è solo la mia, posso dirla francamente, non è solo la mia, è che il gesto fondamentale, insomma, degli operai a Mirafiori, delle donne nella casa, degli studenti, era quello appunto invece non appunto di dire vedete, siamo noi la nuova soggettività. Questo forse sì, questo sì, gli hanno messo in bocca qualcun altro, ma nella pratica era invece una negazione rispetto a quella che era appunto una produzione di soggettività, perché poi il governo si regge su questo. Possono dire non è altro che lo svelamento di questa verità del capitale, cioè che il potere produce soggettività. Non è che la soggettività è qualcosa che si produce altrove. Questo l'ha detto da Aristotele a Althusser, è evidente, il potere produce la soggettività. Noi possiamo pensare appunto delle Foucault l'ha chiamate controcondotte possiamo chiamare in tanti altri modi, ma il gesto fondamentale oggi il gesto rivoluzionario oggi è quello appunto di sottrazione a questo tipo di controllo, perché il controllo poi di cui appunto parlavi tu anche in altri interventi, appunto per esempio il controllo che prima era quello dei collocatori e degli altri, il problema reale oggi è che questo controllo si è diffuso e che ciascuno è il controllore di se stesso e dell'altro. Questo è il problema, come dire, del governo, del mondo e delle cose oggi. È un problema interno alla soggettività, non è un problema che è fuori, non è un problema che è del lavoro e dell'economia, è un problema che è dentro appunto la stessa produzione di soggettività. E quindi se noi non siamo in grado appunto di rompere, appunto di fare autonomia lì dentro, mi sembra difficile fare autonomia ovunque si possa parlare di un processo di autonomia. Perché è vero il fatto appunto il capitale che si rende autonomo, non da lavoro, ma questo era evidente già alla fine degli anni 60. Il problema è stato proprio sullo scontro sulla questione dell'autonomia, perché da una parte c'era l'autonomia proletaria appunto così, e dall'altra c'era un processo di autonomia del capitale che poi, infatti, cos'è diventato dopo? Autovalorizzazione, autoimprenditorialità, auto tutto, no? Cioè autocontrollo, questa è l'introiezione, no, del paradigma del controllo della produzione all'interno stesso delle singolarità. Questo è esploso poi alla fine degli anni 70 e è stato il reale processo controrivoluzionario. Perché poi la controrivoluzione E questo lo spiego nel più piccolo dei manuali, no, dei militari. Si vince dentro gli spiriti, non fuori, cioè non è qualcosa che si vince semplicemente reprimendo, no, mandando l'esercito nelle strade. È una delle, come dire, l'ultima delle opzioni, ma vuol dire che il potere già sta alle con le spalle al muro quando manda l'esercito nelle strade. Il problema è che la controinsurrezione si vince dentro, e il problema è che qui in Italia in particolare poi si è vinto dentro quella famosa composizione sociale e politica, perché il nord-est, prendiamo il nord-est, no? La questione, no? Proprio del triangolo, che poi da dove sono nate moltissime lotte autonome, Porto Marghera, tutto quanto il petrolchimico, Padova, eccetera eccetera. Perché proprio lì è venuto fuori, no, questa specie di mostro produttivo, no, che si è basato sulla piccola media impresa e che poi ha prodotto politicamente la Lega, eccetera eccetera. E queste domande, insomma, prima o poi bisogna farsele e darsi anche una risposta. È perché è lì che è entrata la contribuzione, e la contribuzione ha agito dentro, trasformando l'operaio assenteista, no, che aveva preso la sua grossa liquidazione avuta grazie alle lotte, ovviamente alle lotte, e l'ha investita nella piccola fabbrichetta sotto casa, ed è diventata a sua volta sfruttatore di se stesso e degli altri poveracci, capito, che gli sono capitati sotto le mani. Questo lo dobbiamo assumere come dire, romanzo antropologico dell'Italia di oggi, se no veramente non capiamo più dove viviamo. Il problema è stato che appunto poi è inutile pensare che esiste un'unica storia continua, appunto, che guarda caso nasce negli anni fine anni 50 con Panzieri, poi attraversa Tronti, passa sempre attraverso, cioè, e arriva fino ad oggi tutta lineare così. Non è la storia non è mai così, appunto, non è mai così, e quindi ci sono dei tagli. E il problema è che gli anni 80 e 90 non hanno lasciato illeso niente e nessuno, per cui il problema non è tanto quello di confrontarsi con quel teorico piuttosto che con quell'altro, e guardare a come effettivamente le evidenze della storia. E le evidenze della storia dicono, appunto, che la contribuzione ha funzionato su determinate linee, che erano quelle che il primo numero di poteri operari dell'UNID, c'è una fotografia bellissima di Tano D'Amico che apparve sul primo numero di poteri operari dell'UNID, scattata a Porto Torres, al petrolchimico di Porto Torres, sulla banchina, e dove ci sono questi cerchi, diciamo, di giovani operai, tutti vestiti diversi, perché venivano tutti, no, da esperienze diverse, chi veniva essendo un pastore, chi dagli studi, e però la cosa interessante è che Tano riesce a fotografare una cosa bellissima, cioè il fatto che ci fosse una linea orizzontale e che nessuno di quegli operai o nessuno di quelli comunque che facevano parte di quei cerchi emergesse in primo piano a impallare gli altri. Non c'era la questione del leader, non della cosa. È questo che l'autonomia ha tagliato una volta per tutta la testa al re. In questo senso anche noi abbiamo avuto i nostri re, noi, voglio dire, il movimento comunista, eccetera, eccetera, quello che, come lo vogliamo chiamare, il movimento rivoluzionario, è quello che ha tagliato definitivamente. Questo anche perché il motivo perché ho detto poter operare si è trovato in una situazione abbastanza complicata, è durato pochissimo infatti, perché in fondo era già con un piede da un'altra parte rispetto a quello che era le sue radici teoriche. E questo era evidente dalla prima foto di poter operare dell'UNID, dove c'era appunto questa linea orizzontale, dove c'erano questi ragazzi che parlavano fra di loro, e dove quella è l'autonomia. Io non vedo altra definizione che quella, questa linea orizzontale, questi amici, no? E compagni, ma amici che parlano tra di loro, alcuni ridono, alcuni sono pensierosi. Questo è la linea etica a cui mi richiamavo prima. Se noi pensiamo veramente ancora oggi che sarà, non so, l'automazione totale della società a salvarci, oppure che come dire, il comunismo è semplicemente la decisione sulla cooperazione sociale senza mettere in discussione la proprietà dei mezzi di produzione, o che ne so, perché c'è sempre qualcuno che dice il problema è il capitalismo, no, il problema è il patriarcato, no, il problema è, non so, qualcos'altro. Il problema forse siamo noi stessi, non è tanto, come dire, il nemico, è noi stessi che non sappiamo più trovare, come dire, la linea del fronte più vicino. L'autonomia, appunto, proprio perché era fondamentalmente basata appunto su un radicamento territoriale, quindi partiva appunto da dove era, tu stavi a Diamante, faceva l'autonomia a Diamante, a Padova, ti confrontavi con Padova, non aveva bisogno di un grande castello ideologico per trovare il suo nemico assoluto, fosse lo Stato o il capitale, bastava che si girava, lo trovava il professore sulla cattedra, il capetto in fabbrica, il padre padrone in famiglia, e quello è ancora il metodo, secondo me, non è così poi complicato appunto la questione. E il problema comunque dell'avvitamento, poi su cui diceva lui, no? Rapporto con l'avanguardia armata, sarebbe stupido non dire che l'autonomia ha avuto a che fare con tutto questo. L'autonomia ha avuto a che fare con le armi, ne sono girate un sacco, come dire, non aveva un problema, come dire, di carattere umanitario rispetto alla violenza, aveva un problema di carattere strategico, questo sì. Questo non solo per un fattore, come dire, di differenza ideologica rispetto a quelli appunto che erano come i sacri testi, no, del marxismo, ma anche del maoismo, no, di quello che andava per la maggiore allora, ma per la forma stessa, come dire, della vita che aveva saputo creare. E questa cosa della forma della vita, guardate che è interessante, perché prima che diventasse poi, negli anni Ottanta, una formulazione filosofica, l'autonomia già ne parlava a metà degli anni 70, in tutt'altro contesto, quando diceva, per esempio, la forma della vita è la nostra base rossa da cui non parte la capacità politica che è distruttiva e creativa allo stesso tempo. Questa, come dire, esaltazione della forma, dell'elaborazione della forma di vita, secondo me, ha permesso all'autonomia di non, come dire, almeno per qualche tempo, di non avere lo stesso vizio che ebbero le organizzazioni armate, in principalmente le Brigate Rosse e poi le altre, quella cioè di pensare di poter autonomizzare, no, la funzione militare da un processo di complessità più ampia del movimento. Ma questo secondo me non è tanto ravvisabile in una differenza ideologica quanto pratica, cioè nel senso che se l'autonomia aveva una possibilità era appunto quella di circolare ovunque, appunto nelle fabbriche, nelle case, nelle case occupate, non che i brigatisti non l'avessero, ma i brigatisti dovevano essere clandestini, la prima regola delle Brigate Rosse era la clandestinità. Due volte hanno fatto eccezione, che io sappia, al fatto, no, di dire, quando tu vieni arrestato, che so, dovevano dire, no, io sono Tizio e Caio, militante delle Brigate Rosse, militante prigioniero politico. Solo due non hanno rispettato questa cosa qui. Però è questo, tu devi essere clandestino all'interno della società. Il problema dell'autonomia, io credo che sia stato proprio il contrario, quello invece di aumentare e di inflazionare enormemente invece questa possibilità, no, di porosità, di capacità di comunicazione, no, di entrare ovunque, ovunque. Cioè il fatto appunto che fin nei piccoli, più piccoli paesi del sud o del nord Italia ci fossero collettivi autonomi, senza che ci sia mai stato un partito, diciamo nel senso tradizionale del termine, ci fa far pensare che era qualcosa che viaggiava su dei canali differenti, che erano appunto quelli emozionali, no? Anche del sentimento. Io concludo il libro ricordando questa settimana di fuoco che ci fu all'indomani, no, dei compagni delle RAF che morirono a Stammai, no? Ci fu questa settimana in cui in tutta Italia ci furono attentati, manifestazioni violente, eccetera, eccetera. E la cosa che venne detta, francamente, anche dai giornali autonomia, è dire, non pensate mica che ci siamo messi d'accordo in qualche comitato centrale. E come dire, è l'emozione, no, di sentire che un tuo fratello, un tuo compagno, un tuo amico, no, è morto in quel modo che ci ha portato tutti a fare qualcosa in questo senso qui. E questa secondo me è una delle grandi, come dire, questione dei grandi pregi degli anni 70, in cui il femminismo appunto probabilmente ha avuto un peso veramente importante, insomma, nel saper, come dire, elaborare questa forma di emozione in, come dire, che diventa azione politica. Ed è qualcosa che effettivamente abbiamo perso nel tempo, ma non per responsabilità appunto biografica soggettiva, è perché appunto il modo di produzione e di controllo, che ripeto, secondo me sono ormai la stessa cosa, ci ha imposto appunto un modello di emozione, no? Di, non di elaborazione, ma di gestione, no? Dell'emozione non omologata, attenzione, perché ci sono c'è la possibilità delle differenze. Questo sì, postmoderno, il postmoderno, il capitalismo postmoderno accetta benissimo che ci siano delle differenze di soggettività, e quindi ci possono essere, che so, l'omosessuale in quanto target commerciale e non più come ovviamente elemento di sovversione, così come tutti gli altri elementi, no, strani, no, che divergono dalla media, basta che non fuoriescono appunto dal quadro di controllo, che è il quadro di produzione allo stesso tempo. E quello è il problema. Il problema è ogni volta come tu ti sottrai, perché autonomia alla fine che significa non solo darsi una regola da se stessi, ma anche come tu ti sottrai, come dire, a quel tipo di controllo, a quel tipo di managerializzazione dei sentimenti. Se non ci sono altre domande, possiamo concludere qui.